Questa originale rumba rock è l'arrangiamento de Il Chant di Meret, che è un vecchio motivo popolare friulano, nel quale il tempo originale di 6 ottavi viene trasportato in 4 quarti con l'inclusione di un breve inciso. Anche che sono rosini e dis, come cosa c'hai portato, là sul quale non troppi trovi, non sa vince fa di loro, io la rendo le parelle, qua al marchio andare in culot, l'ancian per spoti che di mere, che alle sfrutti come la sera, quando sento il mio serrato, da carina contratta. Al più dopo in 2 mesi, al più vecchio un 40. Ascoltate infine questo ciribiribin, non friulano, ma che da anni il Friuli ha accettato con lievi modifiche e che canta su vecchio testo friulano. Il quintetto lo suona e lo canta a tempo di mambo, che in linea di massima non si discosta molto dall'originale, ma che però da questa orchestrazione ed esecuzione acquista notevole vivacità. Non si lavora, ciribiribin, si passa l'ora, ciribiribin, a far l'amore. Ciribiribin, domani è festa, ciribiribin, non si lavora, ciribiribin, si passa l'ora, ciribiribin, a far l'amore. Domani è festa, non si lavora, si passa l'ora, a far l'amore. Domani è festa, ciribiribin, non si lavora, ciribiribin, si passa l'ora, ciribiribin, a far l'amor. Ciribiribin, si passa l'ora, ciribiribin, a far l'amore. biri biri bin, domani è festa, ciri biri bin, lo si lavora, ciri biri bin, si passa in lotta, ciri biri bin, a far l'amore. Domani è festa, non si lavora, si passa in lotta, a far l'amore. Ciri biri bin, domani è festa, ciri biri bin, non si lavora, ciri biri bin, si passa l'ora, ciri biri bin, a far l'amore, ciri biri bin, a far l'amore, ciri biri bin, a far l'amore, ciri biri bin, a far abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 72esima trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ermete Pellizzari. Esecuzione e arrangiamento del quintetto Tonin e il suo quartetto, di Udine, composto da Antonio Cuberli, Bruno Rossi, Renato Nadalini, Rodolfo Grinzato e Archileo Gori.